Capitolo 2. Febbraio. Torta ciabella. Ingredienti: 175 g di zucchero semolato di prima qualità, 300 g di farina di prima qualità setacciata 3 volte, 17 uova, scorza di un limone grattugiato. Preparazione: in una casseruola si mettono 5 rossi d'uovo, 4 uova intere e lo zucchero. Si sbattono finché il composto non risulti spumoso e poi si aggiungono altre 2 uova. Si riprende a sbattere e quando le uova si sono bene amalgamate se ne aggiungono altre 2 e così di seguito fino a incorporare a 2 per volta tutte le uova. Per preparare la torta di nozze di Pedro e Rosaura, Tita e Naci avevano dovuto moltiplicare per 10 le quantità di questa ricetta, poiché invece di una torta per 18 persone dovevano prepararne una per 180. Il totale era di 170 uova. Questo significava che era stato necessario procurarsi quel numero di uova di ottima qualità per lo stesso giorno. A tal fine avevano cominciato a conservare parecchie settimane prima le uova deposte dalle galline migliori. Era da tempi immemorabili che nella fattoria si utilizzava questo metodo per disporre durante l'inverno di un alimento così nutriente e necessario. Il periodo migliore per questa operazione è quello di agosto e settembre. Le uova destinate alla conservazione devono essere molto fresche. Nacia le preferiva di giornata. Si mettono le uova in un recipiente e si ricoprono completamente di grasso di montone sciolto e quasi freddo. Questo è sufficiente a garantirne la buona conservazione per parecchi mesi. Se si desidera invece conservare le uova per più di un anno, bisogna collocarle in una giara e coprirle con una miscela che consiste in una parte di calce e 10 di acqua. I recipienti vanno chiusi ermeticamente per evitare che vi entri l'aria e poi riposti nella dispensa. Tita e Naccia avevano scelto il primo metodo perché non dovevano conservare le uova per molti mesi. Il recipiente da cui prendevano le uova per preparare la torta lo tenevano a portata di mano sotto il tavolo della cucina. L'incredibile sforzo di sbattere tante uova incominciò a turbare la mente di Tita quando erano appena a 100 uova. La cifra di 170 le sembrava irraggiungibile. Tita sbatteva mentre Nacia rompeva i gusci e versava le uova nel recipiente. Un brivido percorreva il corpo di Tita e, come si dice volgarmente, le veniva la pelle d'oca ogni volta che si rompeva un uovo. Associava le uova ai testicoli dei polli che erano stati castrati un mese prima. I capponi sono galli castrati per l'ingrasso. Per le nozze di Pedro e Rosaura era stato scelto questo piatto, in quanto era uno dei più prestigiosi della buona tavola, sia per il lavoro che richiedeva, sia per lo straordinario sapore dei capponi. Una volta fissata la data delle nozze, per il 12 gennaio, si provvide all'acquisto di 200 polli, i quali, dopo essere stati operati, vennero subito messi a ingrassare. L'incombenza ricadde su Tita e Nacia. Nacia per l'esperienza e Tita come castigo per aver rifiutato, con la scusa di un mal di testa, di essere presente il giorno in cui erano venuti a chiedere la mano di sua sorella. «Non permetterò le tue ribellioni», le disse mamma Elena. «Né permetterò che tu rovini le nozze a tua sorella con quell'atteggiamento da vittima. Da questo momento ti incaricherai dei preparativi del banchetto e bada che non voglio né broncio né lacrime. Hai capito?» Tita cercava di non dimenticare quell'avvertimento mentre si accingeva ad affrontare la prima operazione. La castrazione consiste nell'incidere la pelle che ricopre i testicoli del pollo. Si infila un dito nel taglio e una volta trovati i testicoli si strappano via. Fatte questo, si cuce la ferita e si friziona con burro fresco con grasso di gallina. Tita era stata sul punto di svenire quando aveva infilato il dito e strappato i testicoli del primo pollo. Le mani le tremavano, sudava abbondantemente, lo stomaco le girava come un aquilone in volo. Mamma Elena l'aveva fulminata con un'occhiata e le aveva detto: «Che cosa ti succede? Perché tremi? Incominciamo a fare storie?» Tita aveva alzato gli occhi e l'aveva guardata. Aveva voglia di gridarle di sì, che faceva storie perché il soggetto da castrare era stato scelto male. Se avessero castrato lei, ci sarebbe stato almeno un motivo reale per negarle il matrimonio e per far prendere a Rosaura il suo posto a fianco dell'uomo amato. Mamma Elena Leggendole negli occhi si era infuriata e aveva rifilato a Tita uno schiaffo tale da farla rotolare in terra insieme al pollo che poi era morto a causa dell'operazione mal riuscita. Tita sbatteva e sbatteva con frenesia come se volesse finirla con quel calvario una volta per tutte. Rimanevano da sbattere soltanto due uova e l'impasto per la torta sarebbe stato pronto. Era quanto mancava. Tutto il resto, comprese le pietanze per un pranzo di 20 portate e gli stuzzichini da servire come antipasto, era pronto per il banchetto. In cucina rimanevano soltanto Tita, Naccia e mamma Elena. Cencia, Gertrudis e Rosaura stavano dando gli ultimi ritocchi al vestito da sposa. Naccia, con gran sollievo, prese il penultimo uovo per romperlo. Tita, con un grido, glielo impedì. No! Smise di sbattere e prese l'uovo tra le mani. Udiva chiaramente pigolare un pulcino dentro il guscio. Avvicinò l'uovo all'orecchio e udì i pigolii con maggiore intensità. Mamma Elena sospese il lavoro e chiese con voce autoritaria: «Che succede? Cos'è stato quel grido?» «Dentro quest'uovo c'è un pulcino. Nacia non può certamente sentirlo, ma io sì. Un pulcino? Sei matta? Non è mai successo niente di simile con le uova conservate.» Si buttò in un baleno su Tita, le strappò l'uovo di mano e lo aprì. Tita chiuse gli occhi con forza. «Apri gli occhi e guarda il tuo pulcino!» Tita aprì gli occhi lentamente e con sorpresa vide che il presunto pulcino non era altro che un uovo e senza dubbio abbastanza fresco. «Ascoltami bene, Tita, mi hai esasperata, non ti permetto di iniziare a fare le tue pazzie. Questa è la prima e l'ultima, altrimenti ti assicuro che te ne pentirai.» Tita non riuscì mai a spiegarsi ciò che era accaduto quella sera, se quanto aveva udito era stato un prodotto della stanchezza o un'allucinazione della sua mente. Intanto la cosa più conveniente era ricominciare a sbattere, perché non voleva verificare fin dove arrivasse la pazienza di sua madre. Insieme alle ultime due uova si aggiunge la scorza grattugiata del limone. Quando il composto si è addensato a sufficienza, si smette di sbattere e si unisce la farina setacciata, mescolando a poco con una spatola di legno fino ad amalgamare bene il tutto. Per ultimo si versa l'impasto in una teglia imburrata e infarinata e si cuoce in forno per 30 minuti. Nacia, dopo aver preparato per 3 giorni 20 manicaretti diversi, era stanca a morte e non vedeva l'ora di infornare il dolce per potersi finalmente riposare. Questa volta Tita non era stata l'ideale come aiutante. Non si era mai lamentata, forse perché lo sguardo indagatore della madre non glielo permetteva, ma non appena vide mamma Elena uscire dalla cucina e dirigersi nelle sue stanze, lanciò un sospiro interminabile. Nacia, vicino a lei, le tolse dolcemente la spatola dalle mani, l'abbracciò e le disse: «Non c'è più nessuno in cucina, bambina mia. Piangi adesso, perché domani non voglio che nessuno te lo veda fare. Tantomeno Rosaura.» Nacia smise di sbattere perché sentiva che Tita era sull'orlo di un collasso nervoso. Beh, lei non lo conosceva sotto questo nome, ma nella sua sconfinata saggezza capiva che Tita non ne poteva più. A dire il vero, neppure lei. Rosaura e Nacia non erano mai andate d'accordo. Nacia mal sopportava che fin da bambina Rosaura fosse stata schizzinosa con il cibo, lo lasciava sempre nel piatto senza averlo toccato. E lo dava di nascosto al Tequila, il padre del pulque, il cane della fattoria. Nacia le portava come esempio Tita, che mangiava sempre tutto e di tutto. Beh, c'era solo una cosa che non piaceva a Tita, ed era l'uovo alla coque che mamma Elena la costringeva a mangiare. Eccetto questo, siccome Nacia si era occupata della sua educazione culinaria, Tita non solo mangiava le solite cose, ma anche humiles, vermi di maguey, acosiles, tepesquintle e armadilli di fronte a un'inorridita Rosaura. Da questa era nata la versione di Nacia per Rosaura e la rivalità tra le due sorelle, che culminava con queste nozze, nelle quali Rosaura sposava l'uomo che Tita amava. Quello che Rosaura non sapeva, ma sospettava, era che Pedro amava Tita di un amore sconfinato. Era comprensibile quindi che Nacia prendesse le parti di Tita e cercasse in tutti i modi di evitarle ogni sofferenza. Nacia asciugava con il suo grembiule le lacrime che scorrevano sul viso di Tita e le diceva: «Su, su, bambina mia, abbiamo quasi finito.» Ma impiegarono più tempo del solito perché il composto non riusciva ad addensarsi a causa delle lacrime di Tita. E così, abbracciate. Piansero finché a Tita non rimasero più lacrime negli occhi. Allora pianse a secco e dicono che fa ancora più male, come il parto asciutto, però almeno aveva smesso di bagnare l'impasto della torta e poté passare alla fase successiva, che è quella del ripieno. Ripieno, 150 grammi di polpa di ciabaccano, un frutto simile alla pesca, 150 grammi di zucchero semolato. Preparazione. Si fanno bollire i ciabaccanos in pochissima acqua e poi si passano al setaccio. In mancanza di questo si può usare un volgare colino. Si versa questa purea in una casseruola, si aggiunge lo zucchero e si mette il tutto sul fuoco senza smettere di rimestare finché non diventa marmellata. Allora la si toglie dal fuoco e la si lascia raffreddare prima di farcire con essa la torta, ovviamente dopo aver tagliato quest'ultima a metà. Per fortuna, un mese prima delle nozze, Nacia e Tita avevano preparato parecchi vasi di conserva di ciabaccanos, fichi e camotes, patate dolci, con ananas. Grazie a questo non si trovarono costrette a preparare la marmellata quello stesso giorno. Erano abituate a preparare in cortile quantità enormi di marmellata per utilizzare la frutta di stagione. Mettevano un pentolone di frutta sul fuoco e per rimestare la marmellata si coprivano le braccia con vecchie lenzuola. Questo evitava che qualche schizzo saltando bruciasse loro la pelle. Appena Tita aprì il barattolo, l'odore dei ciabaccanos la riportò al pomeriggio in cui avevano preparato la marmellata. Tita veniva dall'orto portando la frutta nella gonna perché aveva dimenticato la cesta. Entrando in cucina con la gonna arrotolata, quale non fu la sua sorpresa nel trovarvi Pedro, che stava andando nel cortile posteriore a preparare il calesse. Bisognava recarsi in paese a consegnare delle partecipazioni e siccome quel giorno il carrettiere non si era presentato alla fattoria, toccava a lui sbrigare la faccenda. Non appena lo vide, Nacia uscì quasi di corsa dalla cucina con la scusa di andare a prendere delle pasote, una pianta aromatica, per i fagioli. Ma per la sorpresa Tita lasciò cadere alcuni ciabaccanos. Pedro si precipitò a raccoglierli e piegandosi poté in parte vedere le gambe di Tita rimaste scoperte. Tita, per evitare che Pedro la guardasse, lasciò andare la gonna e nel far questo tutti i ciabaccanos rotolarono sulla testa di Pedro. Oh, mi scusi, Pedro, le ho fatto male? Mai, come gliene ho fatto io. Lasci che le dica le mie intenzioni. Non le ho chiesto spiegazioni. È necessario che le spieghi alcune cose. Una volta ho ascoltato le sue parole ed erano menzogne, non voglio farlo più. E dicendo questo, Tita uscì in fretta dalla cucina per la porta che dava in salotto, dove Cencio e Gertrudis stavano ricamando il lenzuolo nuziale. Era un lenzuolo di seta bianca, con al centro un forellino delicatamente lavorato. Questo pertugio era destinato a mostrare soltanto le parti nobili della sposa nei momenti di intimità coniugale. Avevano avuto davvero fortuna a trovare della seta francese in quei tempi di instabilità politica. La rivoluzione rendeva insicuri i viaggi all'interno del paese e così, se non fosse stato per un cinese dedito al contrabbando, non avrebbero potuto avere il tessuto. Mamma Elena non avrebbe mai permesso che le figlie corressero dei rischi andando nella capitale a comprare l'occorrente per il vestito e il corredo di Rosaura. Questo cinesino era abbastanza furbo, vendeva merce nella capitale accettando d'essere pagato con banconote emesse dall'esercito rivoluzionario del Nord, che lì avevano scarsissimo valore e non si potevano utilizzare. Ma le otteneva certamente a prezzi irrisori e con quel denaro se ne andava al Nord, dove le banconote riacquistavano il loro valore reale e così comprava la mercanzia. Al Nord, naturalmente, accettava a prezzi infimi le banconote emesse nella capitale e fece così durante tutta la rivoluzione fino a diventare milionario. Ma l'importante fu che Rosaura, grazie a lui, poté usufruire dei tessuti più raffinati ed eleganti per le sue nozze. Tita rimase come ipnotizzata di fronte al candore del lenzuolo. Erano stati soltanto alcuni secondi, ma sufficienti a causarle una specie di cecità. Ovunque posasse lo sguardo vedeva solo il colore bianco. Rosaura, che stava scrivendo a mano degli inviti, le sembrava un niveo fantasma. Dissimulò così bene quanto le stava accadendo che nessuno se ne accorse. Non voleva prendersi un'altra sgridata da mamma Elena. E così, quando i Lobo vennero a portare il loro regalo di nozze, cercò di concentrarsi per scoprire chi stesse salutando, perché le sembrava di assistere a uno spettacolo di ombre cinesi coperte da un lenzuolo bianco. Fortunatamente la voce stridula di Paquita le fornì la soluzione e poté salutarli senza problemi. Più tardi, accompagnando il lobo all'entrata della fattoria, le sembrò che perfino la notte fosse come non l'aveva mai vista, chiara e rilucente. Ebbe paura che le accadesse la stessa cosa nel momento in cui si stava invano impegnando a preparare la glassa con cui ricoprire la torta. La intimoriva il candore dello zucchero semolato, sentiva che da un momento all'altro il bianco si sarebbe impadronito della sua mente, senza che lei glielo potesse impedire, mentre le candide immagini della sua infanzia la trasportavano nel mese di maggio, quando vestita di bianco la portavano a offrire fiori bianchi alla Madonna. Entrava, camminando tra una fila di bambine vestite di bianco, fino all'altare pieno di ceri e di fiori bianchi, illuminato da una celestiale luce bianca che proveniva dalla vetrata del bianco edificio parrocchiale. Non ci fu volta che entrasse in chiesa senza sognare di farlo un giorno al braccio di un uomo. Doveva fermare non solo questo, ma tutti i ricordi che la potevano ferire. Aveva da finire la glassa per la torta di nozze di sua sorella. Con uno sforzo supremo, cominciò a prepararla. Dosi per la glassa: 800 g di zucchero semolato, 60 gocce di limone e acqua sufficiente a bagnare lo zucchero. Preparazione: si mettono sul fuoco in una casseruola l'acqua e lo zucchero e non si smette di rimestare finché non cominciano a bollire. Si colano allora in un'altra casseruola e si rimettono sul fuoco unendovi il limone fino a ottenere una pasta di consistenza morbida, pulendo di tanto in tanto i bordi della casseruola con un panno umido, perché lo zucchero non cristallizzi. Quando il composto ha raggiunto la giusta densità, lo si rovescia in un'altra casseruola umida, lo si spruzza d'acqua e lo si lascia raffreddare. Poi, con una spatola di legno, lo si lavora fino a ottenere una pasta omogenea. Per stenderla, la si allunga con un cucchiaio di latte e la si scioglie sul fuoco e si aggiunge poi una goccia di carminio e si ricopre soltanto la parte superiore della torta. Nacia si accorse che Tita stava male quando si sentì chiedere se non metteva il carminio nella glassa. «Bambina mia, l'ho appena messo. Non vedi com'è diventata rosa?» «No? Vai a dormire, bambina, finisco io la torta. Solo le pentole sanno che cosa siano i bollori. Ma io indovino i tuoi. E adesso smettila di piangere, che mi stai bagnando la glassa. E poi non serve più. Su, su, ora vai.» Nacia coprì di baci Tita e la spinse fuori dalla cucina. Non si spiegava da dove avesse tirato fuori altre lacrime, ma l'aveva fatto, alterando così la consistenza della glassa. Ora lo sforzo per riportarla al punto giusto sarebbe stato doppio. Rimasta sola, si impose di finire la copertura al più presto per andare a dormire. La copertura si ottiene con 10 bianchi d'uovo montati a neve fermissima e 500 grammi di zucchero. Quando ebbe finito, le venne in mente di infilare un dito nella glassa per assaggiarla e verificare se le lacrime di Tita non ne avessero alterato il sapore. No, apparentemente non avevano alterato il sapore e tuttavia, senza sapere perché, Nacia fu invasa da una grande nostalgia. Ricordò uno per uno tutti i banchetti di nozze che aveva preparato per la famiglia della Garza, sempre con l'illusione che il prossimo sarebbe stato il suo. Con i suoi 85 anni non valeva la pena di piangere, di lamentarsi che non fossero mai arrivati né l'atteso banchetto né le attese nozze, nonostante un giorno il fidanzato fosse arrivato e come se era arrivato. Solo che la mamma di mamma Elena si era incaricata di farlo fuggire. Da allora si era accontentata di godere delle nozze altrui e aveva fatto così per molti anni senza troppi rimpianti. Non sapeva perché le venissero in quel momento. Sentiva che era un'emerita sciocchezza, ma non poteva evitare che le venissero. Ricoprì la torta di glassa nel miglior modo possibile e se ne andò nella sua stanza con un forte dolore al petto. Pianse tutta la notte e la mattina seguente non ebbe la forza di assistere alle nozze. Tita avrebbe dato qualsiasi cosa per essere al posto di Nacia, perché lei non solo doveva essere presente in chiesa, si sentisse come si sentisse, ma doveva controllarsi per non rivelare la minima emozione. Credeva di poterci riuscire a patto di non incrociare con il suo sguardo quello di Pedro. Tale eventualità Avrebbe distrutto tutta la pace e la tranquillità che ostentava. Sapeva di essere lei, più di sua sorella Rosaura, il centro dell'attenzione. Gli invitati, più che per compiere un dovere sociale, volevano divertirsi all'idea della sua sofferenza. Ma non li avrebbe accontentati. No, poteva sentire chiaramente alle sue spalle i penetranti bisbigli dei presenti al suo passaggio. Hai visto Tita? Poverina, sua sorella sposa il suo fidanzato. Una volta li avevo visti per mano nella piazza del paese e sembravano così felici. Davvero? Beh, Paquita dice di averlo visto un giorno nel bel mezzo della messa, Pedro che passava a Tita una lettera d'amore, anche profumata. Dicono che andranno a vivere nella stessa casa. Io, se fossi Elena, non lo permetterei. Oh, non credo che andrà così. Sai bene com'è pettegola la gente. Non le piacevano per niente quei commenti. Il ruolo della perdente non le si confaceva. Doveva assumere un chiaro atteggiamento di vittoria. Rappresentò il suo ruolo degnamente, da grande attrice, evitando di prestare attenzione alla marcia nuziale, alle parole del sacerdote e al momento del sì e allo scambio degli anelli. Riandò con la mente al giorno in cui a 9 anni aveva fatto una scappatella con i bambini del paese. Le era proibito giocare con i maschi, ma ormai era stanca dei giochi con le sorelle. Se ne erano andati in riva al fiume per vedere chi era capace di attraversarlo a nuoto nel minor tempo possibile. Che piacere aveva provato quel giorno, perché era stata lei la vincitrice. Un altro dei suoi grandi trionfi si era verificato in paese durante una tranquilla domenica. Aveva 14 anni e passeggiava in calesse insieme alle sorelle, quando alcuni bambini lanciarono un petardo. Cavalli presero a correre spaventatissimi, giunti fuori dal paese si imbizzarrirono, il conducente perse il controllo del veicolo. Tita allora lo spinse da parte e riuscì a domare i 4 cavalli da sola. In quel mentre giunsero dal paese in loro soccorso alcuni uomini che rimasero stupiti davanti all'impresa di Tita. In paese l'accolsero come un'eroina. Questi e altri ricordi dello stesso genere le occuparono la mente durante la cerimonia, facendole sfoggiare un sorriso da gatta beata finché arrivò al momento degli abbracci, dovette rallegrarsi con la sorella. Pedro, che era accanto alla sposa, disse a Tita: «E a me non fa gli auguri?» «Oh, sì, certo, le auguro molta felicità». Pedro, abbracciandola più strettamente di quanto fosse permesso dalle norme sociali, approfittò dell'unica opportunità che aveva per dire a Tita qualcosa all'orecchio. Sono sicuro che sarò felice perché con queste nozze ho raggiunto quello che desideravo, stare vicino a lei, la donna che davvero amo. Le parole che Pedro aveva appena pronunciato furono per Tita come una fresca brezza che riaccende i resti del carbone quasi spenti. Il suo viso, per tanti mesi costretto a non mostrare i suoi sentimenti, cambiò inevitabilmente espressione e riflesse grande sollievo e felicità. Era come se tutta quella ebollizione interiore quasi spenta fosse stata ravvivata all'improvviso dall'infuocato alito di Pedro sul suo collo, da quelle mani ardenti sulla sua schiena, da quell'impetuoso petto sul suo seno. Sarebbe rimasta così per sempre, se non fosse stato per lo sguardo che mamma Elena le lanciò e che la fece staccare rapidamente da lui. Mamma Elena si avvicinò a Tita e le chiese: «Che cosa ti ha detto Pedro?» «Niente, mammina». «Ah, non mi inganni, io sono molto più furba e più svelta di te, quindi non fare la gnorri. Guai a te se ti vedo di nuovo vicina a Pedro». Dopo le minacciose parole di mamma Elena, Tita cercò di stare il più lontano possibile da Pedro. Non riuscì invece a cancellare dal suo volto un sorriso di sincera soddisfazione. Da quel momento le nozze ebbero per lei tutt'altro significato. Ormai non la disturbava più vedere come Pedro e Rosa andavano di tavolo in tavolo a brindare con gli invitati, né vederli ballare il valzer, né più tardi vederli tagliare la torta. Ora ne aveva la certezza, Pedro l'amava. Moriva dalla voglia che il banchetto finisse per correre da Nace a raccontarle tutto. Attese con impazienza che tutti terminassero la torta per potersi ritirare. Il manuale di Galateo del Carregno le impediva di farlo prima, ma non le vietava di veleggiare fra le nuvole mentre mangiava in fretta la sua fetta. Era così assorta nei suoi pensieri da non accorgersi che attorno a lei stava succedendo qualcosa di strano. Un'immensa nostalgia si era impadronita di tutti i presenti, non appena avevano gustato il primo boccone di torta. Anche Pedro, sempre così allegro, faceva uno sforzo tremendo per trattenere le lacrime. E mamma Elena, che neppure alla morte del marito aveva versato una lacrima di dolore, piangeva silenziosamente. E non fu tutto. Il pianto fu il primo sintomo di una strana intossicazione che aveva a che vedere con una gran malinconia e un senso di frustrazione che si impadronì di tutti gli invitati e li spinse in cortile, nei recinti, nei bagni, e ognuno rimpiangeva l'amore della sua vita. Nessuno sfuggì al sortilegio e soltanto pochi fortunati arrivarono nei bagni in tempo. Gli altri parteciparono a una vomitata collettiva al centro del cortile. Ebbene, l'unica a cui la torta fece rosina fu Tita. Non appena finì di mangiarla, abbandonò la festa. Voleva informare Nacia quanto prima che aveva ragione quando diceva che Pedro amava solo lei. Mentre immaginava l'espressione felice di Nacia, non si accorse dell'infelicità che cresceva al suo passaggio fino a raggiungere livelli pateticamente allarmanti. Rosaura, traconati di vomito, fu costretta ad abbandonare il tavolo d'onore. Cercava in tutti i modi di controllare la nausea, ma la sgradevole sensazione era più forte di lei. Aveva tutte le intenzioni di salvare il vestito da sposa dalle iezioni dei parenti e degli amici, ma cercando di attraversare il patio, scivolò a terra. E non rimase una sola parte del vestito che non fosse sporca di vomito. Un voluminoso fiume macilento la avvolse e la trascinò per alcuni metri. Senza potersi più trattenere, schizzò come un vulcano in eruzione, fragorose boccate di vomito davanti allo sguardo esterrefatto di Pedro. Rosaura rimase molto dispiaciuta per questo incidente che le rovinò le nozze e nessuno riuscì a toglierle dalla mente che fosse stata Tita a mettere qualche emetico nella torta. Trascorse tutta la notte tra lamenti e tra il tormento che le causava l'idea di macchiare le lenzuola che aveva ricamato per così tanto tempo. Pedro le suggerì con premura di rinviare la consumazione delle loro nozze, ma passarono mesi prima che Pedro si sentisse in dovere di farlo e prima che Rosaura osasse dirgli che ormai stava perfettamente bene. A un dato momento Pedro capì che non poteva astenersi più a lungo dal suo dovere di inseminatore e quella stessa notte, usando il lenzuolo nuziale, si inginocchiò davanti al letto e, come pregando, disse: «Non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio». Tita non aveva mai immaginato che sarebbe trascorso così tanto tempo prima che le famose nozze venissero consumate. Non le interessava neppure il modo, e tantomeno se la cosa fosse avvenuta il giorno della cerimonia religiosa, o un qualsiasi altro giorno. Più di ogni altra cosa era preoccupata di salvare la pelle. La notte dei festeggiamenti aveva ricevuto da mamma Elena una fenomenale bastonatura come mai le era capitato di subire, né mai più avrebbe preso. Aveva trascorso 2 settimane a letto per rimettersi dai colpi. Il motivo di un così colossale castigo era la certezza di mamma Elena che Tita, in combutta con Nacia, avesse premeditato di rovinare le nozze di Rosaura mescolando un emetico alla torta. Tita non riuscì mai a convincerla che l'unico elemento estraneo erano state le lacrime versate durante la sua preparazione. Nacia non poté testimoniare in suo favore, poiché quando Tita era andata a cercarla il giorno delle nozze, l'aveva trovata morta, con gli occhi aperti, 2 cicchiadores sulle tempie, contro il mal di testa e la foto di un antico fidanzato tra le mani. Continua. Prossima ricetta, quaglie ai petali di rosa.